sotto al mio balcone sento cantar una canzon d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battermi sento forte il cuore, e battermi sento forte il cuore. Oh, quanto dolce quella melodia, oh, com'è bella, quanto m'è gradita. Io la canti non vuole, mamma mia, vorrei saper perché me l'ha proibita. Ella non c'è ed io la vo' cantare, la frase che m'ha fatto palpita. Baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Vorrei morir con te, angel di Dio. Oh, bella innamorata, mio, qui sotto il vidi ieri a passeggiare e lo sentiva al solito cantare. Oh, vorrei baciare